siamo qui per ringraziare, siamo qui per vivere. Non siamo un'eccezione, siamo persone. Ci hanno detto calma, aspetta un po', non è il momento, non si può. Scegliere anche quando fa paura già. Non siamo il problema, non siamo un errore, siamo la voce che resta e che conta. Questa vita è nostra, non si chiede, si sceglie. Non è un favore, un diritto, ogni scelta. Stesso valore, stessa fame di futuro e amore. Non siamo eroi da raccontare, siamo persone da rispettare. Attivamente nasce qui, dove la vita si sceglie davvero, non per concessione, ma per dignità. Siamo persone noi.